Radio Popolare presenta La Caccia, caccia l'ideologico quotidiano a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buonasera, buonasera. L'indice prevede di parlare di violenza di razza. L'indice prevede di parlare di violenza di razza, diciamolo bene, di falsi contro falsi e di posticci, nonché la prima puntata, sicuramente attesa, di Caccia Vostra, Metter su casa.